questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare come sempre l'imperdibile, l'imperdibilissimo, il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV. Parliamo di rete, parliamo di hashtag, parleremo di tante cose che in realtà Daniele Bellasio questa sera non sa, perché gli ho dato adesso la scaletta, non ha proprio idea di quello. Sì, e soprattutto parleremo di un sacco di cose, ma non possiamo parlare di politica. E perché non possiamo parlare? No, perché siccome tu la odi, hai come dire subornato il legislatore, per cui esiste una legislazione, per cui c'è la par condicio. Quindi quando io ogni tanto senti che mi mordo la lingua e inizio a parlare di qualcosa in modo sconclusionato, più del solito di quanto già non faccia, è perché vorrei parlare di politica. E se no facciamo i bip. Però allora facciamo che, siccome non ne parliamo, esatto, alla radio, loro possono parlarne ai nostri account Twitter, @MartaCagnola, oppure @DiBellasio, oppure mettete l'hashtag RadioTube e parliamo solo di politica su Twitter mentre andiamo in onda in diretta. C'è un buco legislativo, è tutto un complesso, però siccome non si parla di politica, quindi parliamo di sesso e sport. Esatto. Parliamo subito di sesso. Allora, perché parliamo di sesso? Ma perché attenzione, ci sono un sacco di foto. Sì. Su Instagram, su Twitter, tutti che si fotografano, ma non sto parlando di quelle foto lì che poi ogni non nel durante, perché anche c'è una par condicio, subito dopo, cioè invece della classica sigaretta, classico selfie. Come si poteva evitare? E poi sono tutti finti, pare. Spero che siano finti, perché se uno, primo pensiero che ha dopo è fotografarsi con l'hashtag after sex. Cioè, se uno è Lars von Trier, fa 7 ore di film, lo divide in due, va al cinema, questo fine settimana, con la donna più bella del mondo, Charlotte. Lo so che ti piace Charlotte. Ma dopo il belfie, cioè il selfie col butt, con le chiappette delle star, dopo il no make-up selfie, quello senza make-up, dopo il selfie, tu l'hai visto il selfie? Quelli che si mettono lo scotch in faccia. C'è gente che proprio a tempo sta bene. Voleva parlare di politica, ma... E c'è appunto l'aftersex. L'aftersex. E ci si fotografa. Hashtag? Sì, hashtag sì. Aftersex, ci si fotografa in coppia. Così parliamo un po' anche di Instagram. L'hanno fatto lì. Sì, ma sai che anche Nerve, che è stato il Nerve.com, è stato il primo a segnalarlo, hanno detto: ma come è nato? Non si è ancora capito com'è nato per bene, però su Instagram circola. Allora, fotografie di coppia, fotografie di gruppo. Anche di gruppo? Sì, ma anche fotografie, e io qua direi che non possiamo approfondire l'argomento, di mani, però qui finito, basta. Come diceva Gaber, un incrocio di mani. Ecco, allora, abbiamo parlato di sesso. Sì. Mi hai raccontato che c'è una mia amica giornalista olandese che si chiama Evelyn Redmayer, che però è venuta a lavorare in Italia, mi ha raccontato che il mitico John de Mol, quello che inventò il Grande Fratello, che peraltro se la sta cavando, no, in televisione. Se la cavicchia, forse poteva essere più brillante, ma insomma, poi anche lì ci sono state un po' di cose. La doccia, c'è una doccia, non so. C'è una doccia, poi forse ci sono stati già degli approcci. Già subito, cotto e mangiato. Impropri, come per comunque, non parlare insomma, di politica. Hanno inventato una roba un po' sociologica in Olanda, no? Sì. Un reality in cui un sacco di ragazzi, di bei figlioli, veniva messo in un posto, in un campo, con una mucca, una roba di questo tipo qui, un po' agreste, se non ho capito male, e l'idea era che dovevano costruire una società da zero. Allora aspetta, ti fermo subito perché io ti ho già preparato l'audio della presentazione americana di questo. Ma è un audio hardcore, immagino. No, è un audio che si può sentire, si può ancora sentire perché ci spiega perché lo spirito. Che è prima, non è durante, è neanche lo dopo. Spirito, eccolo qua. This is the purest form of reality that I have ever produced in my career. We put 15 people in very difficult circumstances and they have to figure out what the choices are they have to make in the beginning. Allora, è la forma più pura di reality che ho mai inventato, dice il signor John de Mol. Sono messi in una situazione particolarmente difficile e devono cominciare dall'inizio. Ma scusa, una forma quindi pura? Quindi che cosa fanno? All'inizio che cosa c'è? All'inizio? All'inizio, la prima una cosa, delle cose più elementari all'inizio è crescete, moltiplicatevi. Quindi pare che invece di mettersi già cresciuti, invece di mettersi lì a costruire una società, hanno subito pensato a costruire, diciamo, la parte edonistica della società, la parte più... aiutami, dai, che non si può parlare di politica, aiutami. Allora, che hai scritto sulla maglietta? I was? Dopo te la leggo. Ah. Oh, sì, una maglietta con una scritta, non si vede alla radio però. No, allora, però entro la fine la dobbiamo leggere dopo tutta. Dopo la leggiamo, hanno pensato a moltiplicarsi. A moltiplicarsi, quindi a un certo punto ci sono stati dei problemi, hanno dovuto chiamare una specie di SOS sessuologo per dire, ragazzi, però non solo quello durante il reality, no? E tutto questo in Olanda. Penso che negli Stati Uniti sarà un filo più tranquillo. Sì, perché? Me. Perché sono più, tu dici, perché c'è una un sorta più. Di... Come so. Però in Olanda sai che è andato bene, eh? La andato prima bene. Puntata venne vista da 1,6 milioni di telespettatori, share del 25,2% nella fascia 18-49 anni. Beh, certo, in Olanda, insomma, sono un po' meno di noi. Di solito la media di rete in quell'orario è 300.000 persone. Ma non dobbiamo dire del vino? Ma sì, diciamo, diamo già l'appuntamento. Ma sì, allora, perché domani, siccome domani se siete a Verona, se siete a Vinitaly, noi ci siamo, padiglione 12, stand E5, ospiti del Consorzio per la tutela dei vini d'Abruzzo. Trasmetteremo Radio Tube in diretta da lì dalle 15 alle 16. Se siete fortunati, ci trovate già un po' brilli. Sì, e soprattutto il Vinitaly è una delle manifestazioni più importanti, di uno dei nostri asset principali della cultura, il cibo, la nostra... Mi sto infervorando, perché siccome non posso parlare di politica parlo delle altre cose come se stessi parlando di politica, ma invece no, è una manifestazione importantissima, venite. YouTube. Beh, insomma, abbiamo, per non farti parlare di politica, ti ho fatto parlare di Sciascio, esatto. Così un po' ti ho distratto. Adesso ti continuo a distrarre. Mi distrai molto, poi siccome io faccio un regalo a te su Gazebo, tu molto più che un regalo, lo so. Lo so, perché c'è un personaggio che a te piace particolarmente. No, vabbè, però aspetta, entriamo intanto nell'argomento. Sì. Mondiali. Devo confessarti che io ai mondiali mi appassiono tantissimo. Beh, certo. Cioè, non sono tanto una appassionata di calcio, anche se sono una donna che riconosce un fuorigioco, però non hanno sesso. I mondiali mi piacciono tantissimo. Quest'anno poi pare ci sia un tifoso particolarmente importante ai mondiali, sai? Che è vero, che è tifoso, peraltro. Beh, è vero. E c'è una televisione argentina. Questo video ci arriva da una collega e amica, che è Maria Luisa Colledani, che ti ha mandato questo video di questa televisione argentina, TYC, non so per cosa stia, che hanno scelto un testimonial molto particolare per tifare la nazionale argentina. Anche particolarmente azzeccato, diciamo. Sì, piuttosto importante, eccolo qua. Il Signor hoy lo chiama. A voi, a cada uno. Vabbè, insomma, si capisce che è la voce del Papa. Sì, e hanno preso dei discorsi che lui ha fatto alla Giornata Mondiale della Gioventù, che ha fatto a Rio, e li hanno montati con le voci dei tifosi, con i cori da stadio e con le immagini dei giocatori della nazionale. Sì. Quando dice il Signore vi chiama, quando dice giochiamo tutti nella stessa squadra, l'hanno abbinato con le immagini del certo, calcio. Certo, sì, è un po' una punta irreverente. È una punta irreverente. Però, comunque Papa Francesco è tifoso. Sì, sì, è tifoso, quindi... sì, assolutamente, di una squadra in Argentina, tifosissimo, quindi è giusto anche. Lorenzo, del San Lorenzo, com'è? Iavol. Sì, ah, vedi, me lo ricordo. Allora, entriamo nell'argomento mondiali. Non vediamo l'ora, manca ancora un po', però la televisione si sta già preparando. Io faccio subito coming out, c'è un po' di conflitto di interessi, non solo perché io adoro questa rete, ma anche perché recentemente ho fatto un documentario per loro, quindi io sono un po' di enorme successo. Sky Arte che ha fatto insieme a Sky Sport, quindi sport, arte, sport. Parliamo di mondiali, parliamo di grandi nomi, parliamo di grandi emozioni. Io ti farei sentire anche il promo, eccolo qua. I mondiali hanno scandito i tempi della nostra vita e scandiranno quelli di chi verrà. 10 appuntamenti tra calcio, letteratura e musica per raccontare una personale storia collettiva. Ci prendiamo la coppa, Pepe! Questo era un pezzettino. Beh, la voce è irriconosciuta. L'hai riconosciuta la voce, io certo so che tu che lo ami, sì, particolarmente. Lo amo perché traspare la passione nel racconto e perché ha inventato un codice, una lingua. E certo, anche un po' per iniziati, però è giusto che sia così, perché quando c'è la passione ci deve essere anche un po' di impegno. Abbiamo al telefono, lasciamelo dire, Federico Buffa. Buonasera Federico. Buonasera a voi, grazie. Daniele Bellasio è un tuo fan piuttosto, cioè adesso si sta togliendo la cuffia, è diventato rosso. Quindi lui si definisce un iniziato a questo punto? Beh, sicuramente sì, ma mi piace esserlo, perché mi piace ascoltare le tue telecroniche, i tuoi racconti, lo speciale su Michael Jordan che è stato twittato in modo pazzesco su Twitter. Mi piace far parte di quel gruppo di persone che si appassiona e che è sempre più grosso. Grazie. È un dilemma quello, nel senso che il linguaggio è complesso. Tante volte sei nel dubbio anche tu se parlare una lingua più orizzontale, quindi che possa arrivare magari più in là di quello che arriva, oppure invece privilegiare un qualcosa di effettivamente più complesso, che però effettivamente dia qualche cosa di diverso rispetto al solito. È un dilemma, è un lancio di moneta, non c'è nessuna certezza. Alle volte va bene, alle volte va meno bene, però la linea di tendenza che mi è stata chiesta Sky è stata questa e io sono contento che vada così. Da questa sera, da dove si parte, Federico? Il 1950, ovvero sia, io ho registrato e sto registrando mentre parliamo, perché siamo a metà per quello che ci concerne con le registrazioni, 10 puntate sul secolo del calcio, che è il Novecento, e 10 edizioni dei mondiali all'interno del Novecento. Iniziamo dal 50 perché è il mondiale che si è giocato in Brasile e si è giocata la partita più famosa della storia del calcio, una partita talmente famosa che non ha bisogno neanche dire chi la gioca, basta menzionare il nome con cui è passata la storia, che è Maracanazo, ovvero sia Brasile-Uruguay. Le narrazioni sono delle narrazioni che ci aiutano a cercare di collocarsi nel periodo in cui si è giocato. Non è possibile prescindere il gioco dall'ambiente che lo circonda. Il calcio è stato saccheggiato, vilipeso, torturato dalla politica continuativamente nel Novecento, ma alla fine ne è sempre uscito in qualche modo dominante, perché è una delle più grandi espressioni conoscibili, ha una orizzontalità che non ha nessun'altra attività umana, e i mondiali che cadono ogni 4 anni hanno veramente dato una sorta di cadenza alla nostra esistenza. Chiaro, un pubblico di cinquantenni è più adatto ad apprezzarlo, perché probabilmente di mondiali ne ha visti di più rispetto a un ventenne. Vabbè, io ho fatto in tempo a vedere quelli dell'82. Quando conosco qualcuno che è nato troppo tardi, dico sempre: non hai visto i mondiali dell'82. Io ho fatto in tempo. Beh, ma i mondiali segnano le generazioni. Perché, tra l'altro, ovviamente Federico Buffa è basket, la voce del basket americano, a molti manca, lo sappiamo. Però tu sei anche un grandissimo esperto di calcio. Io non mi ritengo un esperto di calcio, è come dire tu sei un esperto di vini. No, mi piace il vino, esperto è un'altra cosa, cioè è una fruizione. Il calcio è una cosa a cui non ho neanche pensato, non ho mai avuto libero arbitrio. Ho visto delle foto che mi fece vedere mia madre, in cui io avevo 3 anni e avevo in mano questa piccola bandiera del Milan in occasione della finale di Wembley, di cui io non ho nessun ricordo, 1963. Però evidentemente è una cosa che si tende a trasmettere, e i miei genitori me l'hanno trasmessa e io l'ho sempre vissuta. Il calcio mi ha fatto gioire, soffrire, e poi in questo momento io ho un certo qual distacco nel momento del calcio, sono meno tifoso di una volta. Non mi ritengo adatto nel mondo più assoluto a descrivere l'attualità del calcio, la domenica del calcio, ma credo di poter invece contribuire nel collocarlo all'interno del Novecento, cioè dove il secolo più controverso e movimentato della storia dell'uomo, in cui il calcio veramente c'è quasi sempre, perché ha accompagnato la storia delle nazioni. Vi faccio un esempio: nel mondiale del 1950 la Germania e il Giappone non possono giocare, lo ha deciso la FIFA, che ha ritenuto che, essendo le due nazioni che hanno scatenato su due fronti la seconda guerra mondiale, non abbiano diritto di giocare quel mondiale. Noi, che sulla carta eravamo parte dell'asse Roma-Berlino-Tokyo, invece a quel mondiale ci andiamo, perché siamo i campioni uscenti, perché abbiamo vinto nel 34 e nel 38 e non c'è stato più il mondiale fino al 1950, e perché siamo italiani. Ecco, questa è una piccola polaroid di questo contesto. Quelli non giocano, noi sì, noi ci andiamo. ma abbiamo paura di andarci in aereo perché nel 49 è caduto l'aereo del Torino e quindi ci andiamo in nave in 3 settimane. E i nostri allenatori sono un giornalista e l'ex presidente del Torino. Cioè, queste sono storie che riguardano noi, riguardano la nostra vita, e tanti che magari c'erano ricorderanno dei dettagli dicendo: ah sì, è vero, mi ricordo, ah, ecco chi era. E quando l'altro giorno ho raccontato la storia del 1974, io mi ricordo che sono entrato al liceo Alessandro Manzoni nel 1973 e per 3 settimane non abbiamo avuto lezione perché il liceo era occupato per vedere il golpe in Cile. Invece adesso, riprendendola, mi sono ricordato tutti i momenti di quel periodo. Mi ricordavo per esempio che alla mia prima assemblea c'era uno bravo con i Ricci che parlava, leader del movimento studentesco, che adesso è il direttore della Sette. Come dire, c'è sempre una circolarità, le cose tornano, e io credo che sia bello fare questa sorta di crossover tra chi siamo stati, chi siamo, cosa ricordiamo. Perché i mondiali ogni 4 anni più o meno ci sono sempre stati. Ma noi non possiamo stare qua fino alle 20:30 a parlare con Federico Buffa, poi alle 23:30 accendiamo il canale 120 e 400, perché 120 è il nuovo canale, la nuova posizione sul telecomando di Sky Arte, che è cambiato da qualche giorno. No, io starei qua ancora fino a... Sì, io avrei una curiosità piccolissima. Mi dici una cosa brevissima che unisce calcio e basket e una che li divide? La cosa che li divide è la componente di casualità, che è il fascino infinito del gioco del calcio, ma è anche il suo limite. Nel basket vince chi è più forte, c'è poco da fare, e chi attacca difende, chi difende attacca. Nel calcio puoi passare tutta la partita nella tua metà campo, nella tua area di rigore, segnare su un rinvio del portiere al 92esimo perché il pallone piglia un ciuffo d'erba e si impenna. Questo non può succedere. Il basket è uno sport esatto, il calcio è volutamente non esatto, infatti non lo vogliono tecnologizzare, non vogliono mettere la televisione a bordo campo, perché sennò sarebbero costretti a renderlo meno fortuito di quello che è realmente, e non ci sarebbe solo la prevalenza della componente umana. Il basket, i replay ce li ha da tanti anni, proprio perché invece cerca di minimizzare il possibile la componente di casualità, ed è uno sport giocato con le mani, quindi ha un'esattezza decisamente superiore. Quello che li unisce, perché il mio maestro Aldo Giordani, che lo prendeva da un'altra definizione, parlava del basket come dell'atletismo giocato, cioè c'è l'atletica leggera ma c'è anche un pallone in mezzo. Il calcio ce l'ha meno questo, però in fondo gli assomiglia, nel senso che è l'atletica fornita a uno sport con palla, e quindi è probabilmente il momento più alto possibile, cioè in cui godi della prestazione atletica ma hai anche l'abilità, non soltanto la forza muscolare, e l'abilità è quella che ci ha fatto delirare, cioè i grandi campioni nei tuoi rispettivi sport, quelli che ti aspetti che da un momento all'altro facciano una cosa che non hai mai visto, e in tante volte siamo andati a casa soddisfatti. In un caso Michael Jordan, nell'altro Maradona, Pelé, chi volete voi. Grazie mille Federico Buffa, allora in bocca al lupo per questa avventura lunga 10 puntate, e in attesa poi di emozionarci con i mondiali. Don't cry for me Argentina, guardate che quello che si diverte sono io, eh. Ah, bello, grandissimo. Ciao. Grazie Federico Buffa, alla prossima. A voi. YouTube. Beh, abbiamo parlato di Scescio, sì. Abbiamo parlato di sport, intanto ricordo i nostri account, quasi di mitologia sportiva, di leggende, i nostri account, @ Marta Cagnola, @ Di Bellasio, per chi ci vuole seguire su Twitter, tanto siamo sempre lì, e l'hashtag RadioTube, ma c'è anche il podcast. Sì, mi piace molto il podcast. Il podcast, anche perché magari uno il sabato sera ha da fare in giro, sta andando all'aperitivo, se ne perde un pezzettino alla radio e così... Oppure li vuole tutti conservare. Li vuole conservare per affetto. Sai nei confronti di chi io provo molto, molto, moltissimo affetto? Per lui, no? Per David. Sì. Devo dire che sono fiero perché ero sveglio a quell'ora, ho twittato la breaking news di USA Today con un certo... così, scoramento. Eh sì, perché David Letterman va in pensione. Eh sì. Io sono convinta che i giornalisti non vadano mai in pensione. David Letterman ha deciso. Poi, poi resta il mito, si può andare in pensione. Poi magari qualcos'altro. Io spero che qualcos'altro ci possa. Magari ci ripensa. C'è possibilità. Però c'è, non si sa. Quasi 67 anni, gli mancano pochi giorni per compiere 67 anni all'età del mio papà. 32 anni che di salutiamo. Successi. Che succede? Cosa ha fatto? Lui l'altra sera, in una puntata del David Letterman Show, io farei ascoltare questi 30 secondi, anche se sono in inglese, perché c'è la commozione nella voce di David Letterman, che dice: ho telefonato al mio capo, alla CBS, abbiamo chiacchierato e gli ho detto mi ritiro. C'è un secondo di silenzio perché non si capisce se è una battuta. Se è una battuta oppure no, e invece non era una battuta, sono seguiti i ringraziamenti. Poi la vera battuta di spirito, che se qualcuno non fosse così familiare con l'inglese tradurremo dopo. Ecco qua cosa è successo al David Letterman Show. Leslie, it's been great. You've been great. The network has been great, but I'm retiring. This is really. Yep. This is true. This is. You actually did this? Yes, I did. Wow. So it. I just want to reiterate my thanks and for the support from the network. All of the people who have worked here. All of the people in the theater. All the people on the staff. Everybody at home. Thank you very much. And what this means now. Is that Paul and I can be married. Allora, cosa succede? Che lui dice davvero mi ritiro, vado in pensione, c'è quel secondo di silenzio, wow, con Paul Schaefer che è il suo pianista, che evidentemente è stato preso davvero alla sprovvista, ringrazia tutti e poi dice: cosa significa? Significa che Paul e io adesso, cioè io e il pianista, ci possiamo finalmente sposare. Finalmente coronano questo. Dave Letterman sarebbe il più grande ospite di Dave Letterman. Sì, sarebbe. Qualcosa del genere dovrà accadere. Senti, io posso fare un volo pindarico alla Mentana? Sì, no, però questo è un mio regalo, devi ammettere. Hai ragione, hai ragione. Sì, perché ti piace, ne vuoi parlare, lo vuoi conoscere. Perché tu sai che io sono una fan. Sì, solo che parlare di questa trasmissione senza poter parlare del contenuto di quella trasmissione, cioè una trasmissione che parla della trasmissione, ma la politica non si può, par condicio, gazebo. Viva la par condicio, gazebo. Gazebo, quindi gazebo, da David. Che è una parola che però un po' evoca, però no. Da Dave Letterman, David Letterman a David Allegranti. Buonasera David. Beh, guarda che è un collegamento pazzesco, eh. Si sentiva il rumore delle unghie sul vetro della regia. Ma no, per lui è un onore, spero, da Dave Letterman. Posso leggere la sua bio di Twitter? Vai, scusami, 1984, subito, perché quando sei più giovane di una certa età puoi scriverlo nella bio su Twitter. Giornalista, blogger al Corriere Firenze, scrivo su Panorama, HuffPost, Europa, Post, Gazebo. Un libro, Ghinetti Giovani 2012, poi lascia il suo indirizzo di posta elettronica e il suo account di Twitter è @DavidAllegranti. Quindi io, Marta, allora vorrei subito far sentire un pezzettino di Gazebo, trasmissione che io faccio ascoltare ossessivamente in RadioTube perché adoro, per far capire cosa hai combinato questa settimana con il grande Diego Bianchi. Ecco qua cosa è successo questa settimana a Gazebo. Noi siamo a Londra. Davide Allegranti, Lorenzo Scurati. In questo momento. Ciao Diego. Ciao. Ciao. Guardate la tristezza. Siamo a Londra, siamo operativi. Anche se ecco Londra, vedi, ecco l'autobus. Vedi ecco l'autobus, vedete? Siamo la prova. Incrocio. Esatto. E più che Londra in realtà sembra Roma, da vedere il tempo, fa un caldo, si schianta e domani torniamo. Ciao. Ecco. Ciao Diego. Bene, un grande saluto. Questo è il reportage. È un grande reportage. Questo è il reportage, secondo me è un reportage abbastanza figo questo. C'erano dei contenuti, dai, il tempo, il traffico, c'è un sacco di informazioni. Allegranti che si capisce che non sta capendo più niente, perché è la prima volta che va all'estero in vita sua. E le ultime notizie lo danno nei pressi di Naomi Campbell. Non possiamo dire perché era con Naomi Campbell, non possiamo dire niente. Era Londra. Perché era Londra, non possiamo dirlo, però era Londra e il reportage, David, fighissimo questo reportage. Davvero? Davvero, sono contento. Guarda, quando avete fatto vedere il double decker e l'autobus che passava è stato un momento di grandissima televisione. Beh, ironia sulle regole del giornalismo, mai mettere le previsioni del tempo, mai mettere la descrizione del luogo, mai mettere i luoghi comuni tipo l'autobus. Vabbè, ma raccontaci, Gazebo, raccontaci quel che si può raccontare, David. Quello che si può raccontare è che insomma è stata una puntata divertente, anticipata da questi due video selfie, perché poi ne andavo in onda anche un altro il giorno dopo. Insomma, abbiamo visto all'opera due campioni, un campione che sembrava, come ha scritto il Guardian, un allenatore di calcio che presenta il suo nuovo acquisto, e questo nuovo acquisto, che è un signore che ha fatto molta carriera ultimamente e che insomma gli manca soltanto il papato, la presidenza di qualche altro augusto stato, e poi insomma, ci siamo, credo che nella sua giovinissima età, anche lui potrebbe mettere nel Twitter la data di nascita. No, sapete che sembrate un po' quelli di Blob. Mi sto divertendo che fanno vedere i video, ma, sì, esatto, ma oscurano i volti. Senti, ma non hai la curiosità di sapere come nasce una puntata di Gazebo, David? Ma, senti, questa è nata abbastanza rocambolescamente lunedì, nel senso che io ero a Firenze, mi ha chiamato uno degli autori, Andrea Salerno, e mi ha detto, l'altro autore Antonio Sofi, e mi ha detto: beh, c'è questo signore che sta andando a Londra e ti andrebbe di partire con Lorenzo Scurati, che è il regista che ha fatto tutte le riprese e ha montato molto bene poi il filmato che avete visto o sentito o twittato, perché poi adesso la televisione si guarda anche attraverso Twitter, tra virgolette, e io gli ho detto: beh, sì, mi sembra una cosa divertente, e poi niente, siamo partiti. Poi durante la giornata ci aggiustavamo con le cose che io segnalavo alla redazione, le cose che venivano in mente allora. Poi abbiamo anche improvvisato, a un certo punto io sono rimasto fuori da si può dire quel luogo lì? Si può dire? Ma il luogo sì, penso. Sì, sono rimasto fuori da Downing Street perché c'erano stati problemi con l'accredito e Palazzo Chigi si è anche scusata molto gentilmente, si sono scusati molto gentilmente a Palazzo Chigi, e sono rimasto fuori. È la tua fortuna, è simbolico del tuo modo di raccontare le cose, il disincanto di chi sembra rimasto fuori e invece riesce a raccontare un sacco di cose come se fosse dentro. Esatto, quindi quella era, diciamo così, la registrazione del fallimento, ma era un fallimento che poi alla fine si è risolto, e comunque sia era divertente anche vedere quello, insomma, come si comportavano i poliziotti inglesi, che attendevano molto gentilmente. Forse a Roma mi avrebbero trattato un po' peggio, un filo peggio, non lo so, però non è detto. Senti, ma tu li segui i tweet quando vai in onda Gazebo? Cioè, beh, ormai per chi sta dentro la TV è ancora peggio, perché sei travolto dai tweet. Sì. Ora, poi la cosa divertente è che quando sono poi puntate come quella di ieri arrivano un sacco di mentions, come dicono quelli, insomma, gli anglofili, o gli anglobesceri come il sottoscritto, e quindi poi è divertente perché tra l'altro Gazebo è molto attiva sui social network, no? Nel senso, ci sono un sacco di persone che, oltre a guardarla in diretta, la trasmissione questa la riguardano online, e poi dovete fare la classifica, cioè La classifica dei tweet, quella è una delle cose che credo più seguite e commentate. Nascono questi fantastici hashtag che di solito crea Simone Conte, il social media manager. Insomma, è tutto una fantastica contaminazione di alto e basso, di autori e pubblico, e credo che sia una delle cose più divertenti della trasmissione, no? Questa contaminazione, perché poi nascono cose nuove, improvvisate. Poi però la cifra che mi sembrava che, insomma, carino, che ha sostenuto Daniele, è questo disincanto, almeno da parte mia, no? Nel senso, penso si possa fare giornalismo anche in questa maniera, cioè cercando di dire cose serie ma in maniera divertente. Questo cerco di farlo anche quando scrivo, e poi la televisione ti facilita, no? Perché c'è tutto un altro registro, sono altri strumenti a disposizione, c'è la potenza delle immagini. Certe volte una faccia di Diego basta, per esempio, a descrivere una scena. Non so che faccia avrebbe fatto sull'absolutely yes di quel signore che si esercita anche con l'inglese dello Schenker. Non so se posso dire che mi piace molto l'accento di David, perché non so se violo la par condicio dicendo che mi piace l'accento. È un accento che, diciamo, è la madre della nostra comunque lingua. Ragazzi, allora in barba alla par condicio io sfido tutti e mando in onda, attenzione, mando in onda delle indicazioni, delle previsioni di voto. Previsioni di voto, ragazzi, cioè proprio la cosa più vietata di tutto. Mi dissocio dalla cagnola. Sentiamo Missouri 4. Con quattro promesse di voto il CDU tedesco è in vantaggio. Ti ringrazio Mirko, veramente informazione utile. Con due promesse di voto il VVD, il Partito Liberale Olandese. Sì. Con una promessa di voto il CHP, il Partito Socialista Turco, e una promessa di voto l'MHP, che è il Partito Nazionalista Turco. L'importante è che non vince Erdogan. Vabbè ragazzi, dai, almeno vabbè, beh, un po' esterofilia, dai. Cosa dobbiamo fare? Sarà dura con la par condicio, ma ce la faremo forse, non lo so. Voi come fate, David? È dura, questa è una bella domanda, la par condicio a gazebo. Come farete? A parte credo che tra un po' gazebo purtroppo finisca, cioè nel senso credo la prossima settimana sia la penultima. Ah. E poi ci lasciate, cioè, orfani, è la puntata così di tutto finisce che... Vabbè. E quindi forse non incappiamo in questa tagliola, o sì, non lo so. È un filo, sì. Comunque, vabbè, insomma, forse anche questo è il motivo per cui finisce, tra l'altro. È durissima. Fra un po' arriva un tuo libro, no? Però non possiamo dire. Non possiamo dire. Quindi non possiamo dire per maggio, cui. A maggio un libro su un argomento di cui non possiamo parlare. Esatto. Ti riospiteremo per parlare del libro senza citare l'argomento. Oppure saremo liberi allora. Chissà. David, grazie per essere stato con noi. Grazie. Salutaci a David Allegranti. Diego. L'account per seguirti su Twitter è molto semplice. @ David Allegranti. E così ti segue ancora chi non ti segue tramite Gazebo, che è bellissimo. Grazie, buona ciao. Serata. Grazie anche a voi. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Radio Tube. Come passa il tempo quando ci si diverte, anzi come vola il tempo. Siamo quando già ci quasi diverte al casello di Agrate mentre andiamo mentre verso andiamo Verona. Verso sai Verona? Cosa ha scritto @contingenze, che non conosco, ma su Twitter? Cosa ha scritto? Dovrebbero tassare i selfie. Ha ragione. No, perché poi tutte le cose che prendono piede, no? In effetti è occupazione di area pubblica per foto social. Beh, così insomma si tira su qualche siccome soldino. Tassano, si può dire tasse, se ce la par condicio. Sì, siccome tassano tutto ciò che va molto di moda, il selfie effettivamente va molto di moda. Ma un'altra cosa che va tanto di moda, la social TV, le serie TV. Sì, le sai serie. Che questa settimana si è diffuso tantissimo l'hashtag HIMYM, cioè ecco, How quelli I met che fate mother. Voi giovani, che è una roba pazzesca. How I met your mother, How I met your mother finale, How I met your mother farewell. Cioè farewell. È finita in America How I met your mother, che in Italia era stata lanciata anche con un titolo un po' buffo, alla fine arriva mamma, insomma alla fine in Italia era andata così all'inizio perché non era azzeccato il titolo, non era azzeccato il doppiaggio. È finita in America e si è scatenato Twitter. Ma come, insomma, cioè, non l'abbiamo vista in Italia, è finita in America, ormai sono in tanti quelli che guardano le serie in contemporanea con gli Quindi Stati si Uniti. Si è capito improvvisamente che qui in Italia c'era un sacco di nostalgici già ora, giusto? Sì, di una serie che non è ancora, cioè, che una non è ancora stagione, arrivata. L'ultima... Com'è possibile? Vabbè, noi non dobbiamo dire che si fa. Come ma fare si l'after fa... sex, però prima. Allora, intanto ascoltiamoci un pezzettino di How I Met Your Mother, che fa capire lo spirito di questa serie che è durata 9 stagioni, 9 anni, con un grandissimo personaggio. Per tutta la vita ho sfidato i miei limiti per sorpassare il confine del possibile. E dunque fino all'impossibile? A essere precisi, più oltre ancora. Fino al punto in cui ciò che è possibile e l'impossibile si mescolano e si trasformano nel possimpibile. E se posso lasciarvi con una massima, ecco qual è. Nella vita, niente e ogni cosa è possimpibile. Beh, il possimpibile di Barney Stinson, una delle grandi leggi di Barney Stinson. Parliamo di serie TV, di quelli che guardano le serie TV anche se non si potrebbe in diretta con gli Stati Uniti, ma anche di web series, con il più grande esperto. Lo possiamo leggere su My Movies, lo possiamo leggere su Wired, lo possiamo leggere su Bad Taste, ma lo possiamo leggere anche su Twitter con il suo account Giniola. Buonasera Gabriele Niola. Buonasera. Gabriele, cioè, insomma, gli italiani alla fine si guardano alla grande le serie in contemporanea con gli Stati Uniti e ne twittano quando vanno in onda in America. Decisamente, cioè, diciamo la sera dopo la messa in onda americana, è tutto un twittar. È tutto un twittar ed è tutto uno spoilerar, perché per chi non lo sapesse si dice spoiler. Io una volta l'ho imparato facendolo per sbaglio. Allora, entrambi su avete, Scandal l'ho avete fatto spoilerato, io. Cioè avete anticipato dei contenuti su qualcosa, di qualcosa che non era ancora andato in onda. Gabriele, a te com'è capitato? Io molto peggio, molto peggio. Io ho Il Trono di Spade, che è una delle serie più seguite, più amate, soprattutto una serie in cui succede di tutto, per cui comunque rovinare qualcosa ha un significato, perché veramente succede una cosa inaspettata. Insomma, io adesso voi non vi dirò nulla di nuovo se vi dico che nella serie Il Trono di Spade muore tanta gente, ne muore proprio tanta. Sì. Io per errore ho anticipato una morte di un personaggio. Ho postato una foto in cui era scritto che questo personaggio sarebbe morto. Qual è la punizione per chi spoilera? Ecco, qual è? Per chi spoilera è il dantesca, capito? È per analogia, cioè ti viene spoilerato ancora di più. Persone che avevano letto i libri su cui si basa Il Trono di Spade mi hanno scritto tutti gli avvenimenti delle prossime sei. No, cioè ti hanno rovinato il futuro. Io so tutto di quella serie, ormai, pur non volendolo. Io sapete che mi sono fatta l'altra sera una foto seduta sul Trono di Spade? Perché che verrà... Sì. Ho visto anche la tua amica Carini. Sì, tutte e due sul Trono di Spade l'abbiamo fatta. E poi la ritwitta un'altra volta. Una volta mi hanno spoilerato, ho scritto una volta su Twitter, sto iniziando a leggere Anna Karenina perché non l'ho mai letto. E mi hanno spoilerato Anna Karenina? Sì, tutto! Mi raccontavano pagina per pagina. Twitter è pazzesco in questo. Allora dai, facciamo il classico gioco, la più bella e la più brutta per te? Ah, io ho una passione sconfinata per Mad Men, una serie più grande di sempre. Sta finendo però, E qua siamo agli sgoccioli. Sta finendo, Letterman va in pensione, ma che è? Sì, tutti comunque che finiscono. E la più brutta? Ne ho vista quest'anno una che non mi è piaciuta per niente, si chiama Real Humans, Veri Umani, una serie svedese di cui però si trovano i sottotitoli in italiano. Racconta di un futuro in cui ci sono gli androidi tra gli umani, quindi ci sono sia umani che robot, solamente che la serie è svedese, per cui gli umani sono svedesi e si fa fatica a Adesso, si fa fatica a chiediamo scusa però, se vuole intervenire l'ambasciatore svedese. Io pensavo invece per cui i robot andavano assemblati, cioè, prima di... Vabbè, siete cattivi. Gabriele, che cosa ci segnali di nuovo? Perché devi sapere, Daniele, a parte che quando c'è un, io... Nasce addirittura un canale dedicato alla serie. Sky Atlantic, io poi non vengo più al lavoro, potrà starò funzionare, solo a guardare esatto, le serie. Come fai? Non lo so. Ma c'è MySky, registri tutto. Registro tutto. Esplode il televisore per la memoria. Prima di lasciarti scappare, perché siamo anche e noi di leggere sgoccioli, il contenuto della maglietta di Marta Cagnola. Qual è questa tendenza di cui ci hai anticipato? Stai parlando delle reaction, immagino. Sì. Le persone si riprendono mentre guardano, persone che filmano se stessi sapendo che avranno una reazione esagerata. Grazie mille, ti leggiamo su My Movies, su Wired, su Bad Taste, ti seguiamo su Twitter, Giniola. Grazie. Ciao. Gabriele, a presto. Ciao. Come passa il tempo velocemente quando si diverte. Siamo agli sgoccioli, abbiamo parlato di un sacco di argomenti, ma abbiamo ancora una cosa che dobbiamo fare questa volta. Sì, non leggere il contenuto della maglietta, diciamo che lo vedono domani a Verona quelli che me la porto. Sì, ok, mi porto la maglietta, la porto. I was born with. Poi allora, sai che c'è un fenomeno in rete che si chiama neck nomination? Non lo so, ovviamente. Eh beh, certo, cioè, perché questi ragazzi giovani non me lo che dire, si non sfidano lo capisco, e bevono e strabevono, ma è una cosa sbagliata. Allora i conduttori radiofonici hanno trovato una nuova iniziativa. Adesso ti spiego perché arrivate in studio Alessandra l'ho Tedesco. Visto, infatti, lo so, meno buonasera male. Alessandra. Buonasera, buonasera cari. Alessandra, la neck nomination. Scritto NEK, quindi praticamente i conduttori radiofonici devono cantare una canzone di neck e devono a loro volta nominare altri conduttori che devono farlo. Stai attento perché il rischio... No, beh, sono qua davanti. Vabbè. Allora, non si sa mai. Pagavano per far finta, quindi dovevamo muovere, avere la bocca senza cantare. Vabbè. Allora, intanto voglio sapere qual è la canzone che hai scelto. L'unica che so, mi sono portata anche il testo cattiva. Scaricato su internet, Laura non c'è. Noi abbiamo addirittura la base, vuoi la base di Laura non sì, c'è? Sì, voglio la base. Allora Filippo, fai partire la base e Alessandra Tedesco ci canta Laura non c'è di Neck. È andata via, Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Dai il coro Bellasio, manca da spezzare il fiato, fa male non lo sa, che non mi è passata. Ecco che fa. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di cantare ho fuso. Ok, stop! Potremmo fare per il, me se- e no. Il selfie after neck. Voi non mi vedete, ma io sono diventata verde in faccia. No, non è vero. Comunque intonata. Non, perché avete detto che è stonata? The winner is, per quanto riguarda Radio 24, avrei voluto nominare Alino Milan, Alessandro Milan, tutte le mattine con 24 mattina. Ma ti ha pagato mattina, anche lui. Perché qualche anno fa mi disse, mi accompagni ad un concerto di NEC? Ah, beh, ah, quindi da lì per la punizione. Nostra amicizia ha subito, insomma, dei contratti. Non vi parlate più. E allora, Deborah Rosciani, che conduce ogni giorno, dal lunedì al venerdì, insieme a Nicoletta Carbone, magari possono anche fare un coro, Cuore e Denari. Ok. Extra Radio 24, Radio Capital, Mario De Santis, che conduce ogni giorno Soul Food alle 12. Lui ha già partecipato alla NEC Nomination e ha cantato Laura non c'è in spagnolo. Adesso lo sfido a cantarlo in aramaico, in giapponese o in una sua lingua scelta. Io saluto NEC e saluto già oggi tutti gli ascoltatori che domani verranno a salutarci al Vinitaly. Segnate Padiglione 12, Stand E5 al Consorzio per la tutela dei vini d'Abruzzo, domani dalle 15 alle 16 siamo lì. Ci vediamo domani a Verona. A domani.